sto baracchino. Ma non ne ho voglia, te la senti la voce. Eia. Che baracchino è? Dimmi tutto. È un baracchino che ho un po' di potenza, anche questo. La radio com'è intanto? Buona? Buonissima. Guarda lo Smith a vedere se si abbassa. Allora, qua siamo le 1. Allora, guarda lo Smith a vedere se si abbassa. Da così, questo passaggio, a quest'altro passaggio abbassa. Sì, tipo 9,25, cioè prima 9,30, poi 9,25 più o meno. Prendila per buona perché già lo sai, no? Che qua non... è uno Smith di Kikia, però si vede la differenza. Sì, vabbè. Se è Smith di Kikia, no, vabbè. Tu vuoi lo Smith buono, vuoi lo Smith di Kikia. Vediamo, no, così... è a 5 watt e così è a... non so quante volte sta andando, la radio comunque è buona. Sì, per me è buona. Vediamo se c'è Natalino all'ascolto, così te lo controllo anche lui. Non c'è Natalino. È un po' presto e magari ancora sta facendo la penichella, dai. Certo, presto, sono i seguenti. Certe volte entrava anche alle 7, ti ricordi? Cioè, non è già uscita da va alle 7. E beh, può capitare, no? Non c'è freddo, no, no. Mamma mia. In pigiama mia, quando ti alzi dalle coperte ogni avreggio. Infatti mi sono vestito in fretta. E beh, non rubare i croccantini. Questo gatto, questa gatta sta sempre cercando di rubare i croccantini. Ma c'è il cibo fresco, no? Fresco proprio, buono, niente, vuole croccantini. Ma bisogna abituare a mangiare roba normale, perché i croccantini a lungo andare le fanno male, le fanno venire i calcoli e i reni. Beh, certo che sì, così è. Vabbè, Natalino non c'è, allora dopo vediamo se qualcuno più lontano va a darmi un controllo, giusto per capire se... la potenza che ha questo baracchino funziona o no? Se mi vuoi dire cos'è, via WhatsApp, così, ma in vendita? No, no, è una 48 questa. Questa è una 48 normale, con l'MB più 5, con la potenza regolabile, capito? Volevo capire quella potenza, se andava bene. Sì, si nota la differenza, si nota come. Guarda, per essere un 48 con la mia BP5 va bene, è bella proprio la modulazione, bella. Niente da dire, nessuna nota negativa da fare. Sì, sì, il mio 48, quello originale, capito? Quello originale solo c'ha la modifica della potenza e basta, e quindi volevo capire se ci aumentava la potenza o meno, tutto lì. Eia, sì, si vede la differenza. Bene, 5 dB, se sono 5 dB, quanto sarà? 4 watt, 20 watt, può essere? Niente ne sai. E quello voglio verificare. No, sono più di 20, sono più di 20. Vabbè, ma noi siamo anche vicini, e poi bisogna vedere lo smetter tuo se va bene. Il 140 era da tenere solo per dare i controlli, eh? Almeno per quello, per dare i controlli giusti. Vabbè. E vabbè, allora già. Già va bene. E addirittura entra anche l'altra radio, che si vede. Oi. Ieri notte ho fatto le 3. Adesso non so come, ho messo a posto quel computer fisso di cui, vabbè, ne stavamo parlando a Natalino, diciamo, era fermo 2 anni e ho cannibalizzato il vecchio computer che era in corridoio, che dovevo buttarlo, no? Ho tolto tutto quello che potevo togliere, scheda video di questo computer l'ho messa al posto della scheda video dell'altro che era sul tavolo e come per magia ha ripreso a funzionare, però poi vedi problemi. E Internet Explorer non funziona più, il browser per navigare. E poi che dire? Aspetta che sto rientrando nel... Ecco qua, stavo rientrando. Poi l'antivirus è scaduto, non è rinnovabile, quindi ne devo trovare un altro. E un po' di manovre devo fare. Però funziona, funziona, naviga, cioè entra su internet, funziona. E quindi un computer guadagnato, dai. Sono troppo contento, perché lì c'erano un bel di programmi, diciamo gratuiti, chiamiamoli gratuiti, dai. Va bene, va bene. Speriamo che entri qualcuno qua. Vabbè, entrare qualcuno, ci vuole entrare, ciao. Magari, come dica. Che rottura di palle che fa. Eia, ma non si può fare niente per le placche? Cioè, che prodotti stai prendendo tu per curarti? Antibiotico sto prendendo, solo antibiotico, non c'ho altro. Solo antibiotico lo prendo, con infiammazione alla gola e basta. Del resto non c'ho niente. Vabbè. O perché ci sono anche sciroppi, roba che dice che dovrebbe migliorare la gola, far passare l'infiammazione, però meglio non, come si dice, meglio non associare troppa roba, non associare antibiotici con altre cose che ci possono attuffare anche i principi attivi delle medicine, capito? No, beh, non ci puoi mettere altro con antibiotico, stai scherzando, non puoi prendere nulla. Eia, va bene, oggi non sono uscito, perché ti dirò, sì, io ho finito al computer alle 3, però poi tra... Insomma, io alle 5 e mezza ero sveglio quasi. Ma nonostante ciò sono rimasto mezzo sveglio tutta la mattina. Ho tardato tantissimo a prendere sonno. In più ho dormito a pezzi. Mi svegliavo, mi giravo. Non lo so perché questa cosa. No, non lo so. Invece di dormire tranquillo, bello. Non sono tranquillo, d'altronde se piglio qualcosa per dormire mi dicono non è pigliare medicine che fanno male, e allora cosa sto sveglio fino alle 6 di mattina, laggiù con pregio. Non è che tra l'altro devo prendere medicine, dottore. No, tutti, anche quando ne parla al baracchino, che ne so sia Gianni, sia Pompono, non è pigliare medicine, e se non ne piglio per dormire cosa so, sveglio fino alle 7 di mattina e poi dormo di giorno come pipistrelli peraltro. Vabbè, tu consulta un medico, non devi consultare agli altri, no? Consulta un medico e dici cosa devo fare, posso prendere qualche cosa per dormire, per stare meglio la notte, oppure non devo prendere niente, e lui te lo dice, capito? Ma il mio medico me l'ha già prescritto, è chiaro, se tu non dormi, non è che puoi stare sveglio tutta la notte e dormire il giorno, che già a metà lo faccio, so già cosa prendere, però tutti, non pigliare medicine, cioè tutti sono buoni a parlare quando la roba non è sulla loro pelle, va bene, quindi io continuerò a fare come faccio già, me ne frego dei commenti degli altri. Curtici per Pomponi, o ci sei? Niente, ma non sta più entrando, non è successo nulla, no, non si sa. No, ho visto Giuseppe stamattina da Nicco, mi ha detto già che è un po' incasinato, però già sta bene. Ah, oh, vabbè un po', infatti non è entrato nemmeno in PMR. Va bene. Ma anche Pomponio dice non pigliare medicine, non pigliare niente, beh, e allora mi tengo malato, non raggio un peggio, non dormo la notte. Non lo so poi perché questa cosa. Sensi di insicurezza, paura di chi ci chissà che cosa, no? E non me ne fotti, infila la medicina e torno, se riesco a dormire. Bene, non ne parliamo, dai. Natalino, scendati. Ah, gli devo portare anche il case. Gli devo portare la carcassa del computer perché lui sicuramente ha una scheda video dentro. E come si fa? Come si fa? O scendo in tram perché la macchina lì non c'è parcheggio, è impossibile. O scendo in tram, mi porto il computer in tram. Molto ci vuole. Tanto passa lì, quello che prendo io dovrebbe passare lì. E ne smontiamo tutto. Poi se va bene per la sua scheda si tiene qui il case, no, sarebbe là. La buccia del computer. E se no lo ordina. Quello è un case del 2004, non lo so se va bene per le schede moderne. Beh, no, non lo sapete se va bene o non va bene. Il problema qual è? Bisogna vedere se va bene o non va bene, capito? Ma Natalino non sa le misure della scheda madre che deve mettere. Cioè, se tu, lui si vuole comprare una scheda X, deve sapere larghezza, lunghezza, le misure deve sapere. Inutile che glielo porto e poi non... E mi viene in macchina, non è proprio possibile andare in macchina. Poi se mi rischio la multa, non ha giusto di là pagare la multa. E mamma nemmeno. Vabbè, lo scendo in tram. Cos'è che passa? Le CS, la 7, la 6. Poi mi guarda i percorsi. Mi guarda i percorsi. Va bene, quello già si può fare. Poi me ne torno in tram. Tranquillo. Va bene. Questi computer sono una dannazione. Io perché non ci metto mano dentro? Natalino lo fa. Io dentro non ci metto mano perché c'è da diventare scemi. Per quello voglio che lo faccia il tecnico se ho un problema. Perché io non devo diventare matto per i computer. Io lo devo solo usare. Sì, vabbè, lo devo usare comunque. Così è. Positivi c'è sto microfono, boh. So che sta calando la preamplificazione. Ma dipende, la batteria nuova, lo sai, se è nuova. Sì, l'ho messa da poco, neanche un mese fa. No, allora no, io qua non ne sento differenze, non credo, non ne sento. Poi se prendi batterie che andanti, io c'è roba importante, tipo microfoni prendo Duracell o Energizer, quelle sì che durano. Vabbè, per cose più, per fesserie prendo anche quelle lì di Lidl 20, mini stilo, batterie da 9, torce e torcioni. Prezzo popolare, diciamo, dai, certo non è dura, cioè non è energetica, però vanno anche bene, hanno anche quelle da 9 volte, proprio per i microfoni, solo che io nei microfoni, te l'ho già detto, no, sto usando batterie ricaricabili da 9 volte, che poi sarebbero 8,4, quando mi si scarica lo faccio altro, è ricaricata e non ne compro più batterie per il microfono, capito? Vabbè, però è consigliato sempre usare batterie. È uguale, non ne cambia niente. Se siano pile o batterie ricaricabili non cambia niente. Tanto quando si scarica, la ricarico, non spendo nulla, non spendo soldi per la batteria nuova. Ok. Era una bella giornata a fare oggi, no, ho visto che c'era il sole, era limpido il cielo. Purtroppo io sono rimasto a letto fino a tardi, perché troppo male ho dormito, è troppo da tardi. Uia, uia. No, no, perché mi era sembrato di sentire in PMR la voce sua, cioè a me sembrava la voce sua, è identica a quella di WhatsApp. Identica. Ora può darsi, mi pare che lui un apparecchietto ce l'avesse, no? Magari sta provando a vedere dove arriva. E glielo volevo chiedere, però adesso non c'è. Quando entrerà glielo chiederò. Bravo, grosso. Poi a me non mi sente. Non mi sente perché ho l'antenna dalla parte opposta. E qui non mi sente. Forse a malapena mi pare sente Natalino. Sì, Natalino lo sente, è vero, è vero. Avevo fatto la prova l'altro giorno, adesso me ne sono ricordato. Comunque di questi antennini che compriamo noi, no, da 14 cm, da 50, tutti sono filtrati in LPT, perché sono in banda amatoriale, poi più sali e più hanno stazionari. E, tranne qualche eccezione, tipo la Oxin CO201, che c'è al centro banda i 4,40. Sono fatte apposta, sono 4,30, 4,50 e il centrobanda è 4,40, quindi è perfetto sia per PMR che LPT. E ce l'ho quella, ce l'ho. E ne ho a buttare le antenne per VU, a voglia. A buttare ne ho. E beh, ma non te lo dico chi è. Claudio è. Ciao! Sexy boy, sempre la solita battuta. Oi, ciao Liu, sexy voice, sei influenzato. Non è molto bella in questi giorni la modulazione, però dai, già ci difendiamo lo stesso. Ciao, buonasera, ben ascoltata. Sì, Marco, ma cosa ne fai tutti gli antenne? A cosa ti servono? A far rosa. Ehi, vabbè, erano prese nel corso di tanti anni, E no, stavo facendo sexy voice, ha detto, beh, oggi un po' meno sexy perché rauca. Dunque, l'SG 7009 era una delle, non so se fosse delle prime che avevo preso, ma io ho la CR8009, non fasulla. Adesso ti spiego, la CR8009 Diamond è fatta per lo IAESU. FT8009 che ha 29 MHz in FM, 50 sempre in FM, poi VU. Questa fasulla che ho comprato da AliExpress, alla fine il 29,50 o poco più al di fuori della banda amatoriale non funziona, funziona solo in VU ed è lunga 1,20 m ed è grossa come la 8009. Un giorno te la dovrei far vedere di persona per capire com'è. È grossa quanto la 7009, però è più corta, è 1,20, invece la SG 7009 è sempre imitazione, è lunga 1,53 la mia, e rende un bel, perché è 3x5 ottavi, ma è solo che è mostruosa da vedere, grossa, sembra una spada. Di solito le antenne, i compromessi migliori sono sempre le antenne da 50 cm, capito, quella con base magnetica, c'ho anche quella. Ce ne ho due di quelle con lo stilo più grossetto. Beh, insomma, è difficile da spiegare qua, dai. Sono ben fornito, dai. Però non ne do, mi dispiace. Cosa devi dare? Io sono passato a potenza, la radio mi dirà, no, è più alta, vero? Può darsi, non ci vado. Certo, a bassa potenza la radio migliora sempre. Tanto già lo sai che siamo a filo di sputo. Ieri sono salito anche in terrazzo, no? Perché un condomino mi ha detto che c'era il cavo dell'antenna davanti alla finestra della parte interna, le finestre dei gabinetti, noi abbiamo il cesso secondario dalla parte interna del palazzo e c'era, insomma, il vento ha spostato l'antenna e l'ha fatta finire in posizione anomala. Allora l'ho messa di nuovo all'estremità, all'angolo dove deve scendere, e ho nastrato tutta la su dei supporti che c'erano anche per antenne TV. Adesso da lì non si muove, non si muove. Perché sennò questo cavo era anda e torna, capito? Poi rischia di grattare sull'angolo, il cavo è rovinato. Allora ci ho fatto un malloppo di nastro americano, lì dove c'è l'angolo, no, del parapetto. Se non lì può sfregare appena appena e si rovina il cavo. Però adesso l'ho immobilizzato e in più ci ho fatto il malloppo di nastro americano, così non... Anche se gratta un po' non gli fa niente. Un pezzo di pompa sempre sporcata ci va quando il cavo arriva all'angolo. Un pezzo di pompa le metti in mezzo, dentro, e le metti in nastro isolante per fermarlo. E tu vedi che non graffia niente. Io ce l'ho per i tiranti, quelli che arrivano agli angoli, ce l'ho a pompa dell'acqua in mezzo, capito? A pompa dell'acqua con le fascette. Così non sfrega il cavo, se no c'è il rischio che sfregando si stacchi, si rompa il nylon. E così fa la stessa cosa per il cavo, uguale, preciso, identico. Vediamo un po' se c'è Massimiliano, ascolta Massimiliano. Non va mai, guess, non va mai, sempre su WhatsApp, ma la radio non va mai, guess. Anch'io sono un po' mezzo, c'è il naso chiuso, amico. Si sente dalla voce. Allora, la pompa, io l'avevo messa il pezzo di pompa e l'avevo nastrata all'estremità, però poi quello di sopra, il padrone terrazzo, vedeva questo cavo che passava a terra, non ne poteva più la vita, l'ha spostato e quindi il pezzo di pompa è andato più giù, cioè il cavo è sceso di un po' meno. Ma non c'è problema, perché sì, se avessi avuto comunque un pezzo di pompa spaccata di lungo l'avrei messa, l'avrei nastrata all'estremità. In compenso ho fatto un malloppo di nastro americano nel punto dove c'è l'angolo del parapetto proprio, no? E comunque ti ho detto, l'ho immobilizzato, da lì non si muove il cavo, quindi non dovrebbe nemmeno più sfregare. L'antenna è perfetta, le ho dato un'occhiata, i radiali ci sono tutti, ci sono addirittura ancora i cappuccetti dei radiali, a posto, niente anomalie, bel panorama da lì, qui è molto più alto del terrazzo di nome, un bijuli, e quindi tutto a posto, l'antenna è bella dritta, meno male, dai, ogni tanto bisognerebbe controllarla. E i mali già va bene, non è un problema quello. Ho visto dove sei, già a una buona posizione. Non ottima. Fossi stato, sai dove era bello? Via Prunicetta, no? In fondo a via Prunicetta. Angolo via degli astronauti, guarda dove mi pare Grode aveva messo un'antenna a portare la ragazza all'epoca. In via degli astronauti, c'è una bella antenna. Quella è una buona zona perché anche superi tutta Prunicetta, molto Pinatoli e un bijou sarebbe, via delle astronauti, un bel palazzo alto. Sì, vabbè, magari si è coperto per altre zone, lì ho visto che si è aperto, abbastanza aperto, che va bene. Ma sei senza foto su WhatsApp, vero? Hai tolto la foto del cane? Vedo che è tutto bianco, non c'è foto. Sì, ho tolto, non c'è niente. Deia, ti sto mandando la foto dell'antenna, ho fatto la foto ieri l'ho fatta, che era giornata grigia. Ho fatto la foto tanto per così. I radiali manuali sono tutti, sono radiali lunghi, 1,30 m, in alluminio. Alluminio un po' rato, credo, purtroppo. Una volta da lontano ho visto appoggiato un uccello e ho detto mamma mia, questo me lo piega, guardate che me lo piega, invece non si mettono lì, non si mettono tanto, li vanno in zone più alte gli uccelli. Già, se ballano già lo piega, ma me l'avevano rotti quelli, prima l'avevano piegati due, poi si erano rotti quelli della Mantovazzurro, questi sono in resina, non le fa niente. Ecco, l'ha mandato, però non l'hai ricevuto tu, forse è spento. E la ingrandisci, si vede, vabbè, si vede. Gli isolamenti fatti bene tra i radiali, tra gli elementi dello stilo. Diciamo, un'antenna onesta, l'antenna non si lamenta tanto. Secondo lui da... com'è che si chiama là? Lui? Secondo lui la camera aperta fa meno TV, dice, perché non ha radiali. I radiali sono il piano di massa, è lo stilo che irradia, non aventa i radiali. Oh, io spero che poi non metta la camera aperta e rimanga lo stesso deluso. Perché come fa il TV, io non può fare il TV e l'altra, boh, veda lui. No, l'ho vista già, l'avevo vista già l'altra volta con la testa, già va bene così come ha voglia. Poi è sottile lì, è sottile. Cioè buce tutto con i radiali pesa 2,5 kg. Era giocattolino, certo rende meno della mantova, però per me era di lusso, di lusso. E vabbè, finché rimane, e poi quando se ne scende, pazienza. Vedrò se è cambiata. Vedrò se è cambiata. E poi lo stesso progetto della via 27L. Questa Energy è lo stesso progetto della via 27L, che poi prima ancora era la Mercury, si chiamava Mercury, e c'era sia mezz'onda sia 5 tappi. È sempre lo stesso progetto, dritto e ritritto, capito? Solo che la via 27L non so se fosse in resina o i radiali in vetro resina, non mi ricordo, fibra di vetro, insomma. Bene, bene. E beh, quelli cosa sono? L'alluminio, hai detto? A me non piace tanto la fibra di vetro, perché poi quando invecchia la soglia ti fa, ti punge tutte le mani. Tutto alluminio è quella, tutto alluminio. Sia lo stilo che i radiali. Invece Antonello Dio si gli ha dato problemi, lo sai. Lui aveva messo la Energy mezz'onda, però gli ha dato una saldatura, non so. Si era interrotto proprio... bisognava aprire l'antenna dentro, un casino era, boh. E quindi lui c'ha l'827 adesso, la Sirio 827. Comunque anche di quella molti la lodano, qualcuno gli ha detto queste cose, anche come pioveva le stazionarie su e giù, ma dipende anche come l'hanno installata, come l'hanno isolata dalla pioggia. Boh. Bene, bene, bene. Ah, io accuditi sul canale, accuditi. Dantavino, ci sei? Questo canale langue, poi da quando non entra nemmeno più Sandro, boh. Si è rotto le palle Sandro, tutto ne ha tolto. Vabbè. Ma io anche se dovessi, diciamo, stufarmi del baracchino momentaneamente, io non è che vado a togliere antenne tutto, lascio tutto come. Se dopo qualche mese mi ritornasse la voglia, c'ho tutto pronto, no? È inutile togliere e mettere antenne, togliere e mettere. Anche Capri 2 c'era un periodo che si era scocciato dalla 27 e aveva tolto l'antenna, l'aveva fatta a 1000 pezzi. Anche però, l'antenna rimane lì. Poi quando uno gli passa la, che ne so, la raggiatura, è tutto pronto, non fai altro che accendere il baracchino e rimane, è tutto pronto, capito? Sì, va bene. Adesso Sandro ne ha tolto tutto, sta vedendo tutto, poi magari fra un anno se ne pente, si ricopra tutto, si ripiazza l'antenna, che senso ha così? Vabbè, se ha roba sul plus è giusto che la venda, se ha roba proprio che non necessaria è giusto che la venda. Ha un po' voluta l'antenna, va bene, non è che sei stufato, sì, l'antenna non va bene. Ah, non va bene proprio, ma perché? Perché fischia, fa TV, perché? Sì, perché fischia e rompe le scatole. Ma... e beh, non ci sarà un'antenna che non fischia, una mezz'onda senza radiare non ce la può mettere. Una mezz'onda. Oh, vabbè. perché lui è un medivetto, gliela potrebbe spiegare. Ma poi questa signora che sente i pischi della terra non ci può pigliare un tower per dormire la notte? Poi ci rompe delle palle. Non funziona così, no, Marco. A casa sua la gente non deve essere disturbata, punto e basta. E tutti continuiamo a dire, ma noi, ma io, ma qui, ma là. Non bisogna disturbare. Capito? Non bisogna disturbare. O che fischi antenna, o che... Non bisogna disturbare. La legge è quella. Tu puoi fare quello che ti piace, ma a me non mi devi disturbare. Capito? Ehi, beh, lui non l'ha mai provato. No, lui ha avuto... No, palle. Ho detto palle. La ghiamassa è la punta, però il vento gli era rotto, figurati. È pur vero che lui è troppo esposto lì, è troppo esposto, ma lui disturba anche di TVI, niente ne sai, disturbava anche di TVI. No, non credo. C'è tutto lì il problema, che fischiava l'antenna. I radiali sono quelli che fischiano, perché lo stile non dovrebbe fischiare da solo. E vabbè, insomma, veda lui. Se ne ha tolto tutto vuol dire che no, non era più camera. Infatti. Così come ne aveva tolto l'antenna persino Benito, no? Aveva proprio tolto l'antenna. E vabbè, purtroppo noi siamo gli unici disperati che ancora mantengono il canale in piedi. Io tengo duro, anche se dico ogni tanto sì, magari mi viene la paranoia per pochi giorni, magari non lo voglio entrare perché non lo voglio parlare, ma poi già tu lo stesso. Natalino è abbastanza assiduo, pochi c'è di assiduo, ma è proprio assiduo, non molto, beh, cosa entra quando può, Franco, giustamente, Capri entra quando può, Gianni entra quando può, ieri c'aveva un'amica a casa, quindi è entrato tardi, se no era a casa, era a casa Gianni. Magari stavo facendo ciucchi, chi lo sa, e giustamente meglio il ciucchi che il baracchino, no? Si può fare anche ciucchi ciucchi con il baracchino acceso. E magari parlando, facendo sentire tutti i suoni, i gemiti. Uia, una trombata in diretta, ma ci manca solo questo, ci facciamo questo. E allora, fidata. Mi, arrivedi tutti assieme, li ho nominati. Ciao Capri 2, vieni avanti, e poi Natalino. Noi, ciao Capri, buonasera, ben ascoltato. Beh, se trovato vuol dire che lo meriti, capito? Già va bene, già va bene. Comunque, è perfetta la modulazione, non ci sono problemi. Perfettissima. Ok. Avanti Natali, ciao, buonasera. Sì, buonasera a tutti, dai. Natalino, Natalino, ho cannibalizzato il computer. Ho messo la scheda video di quel computer su quello da tavolo. Magicamente funziona, ero troppo contento. Ma non solo, non solo. La batteria del BIOS era esaurita. Ho tolto la batteria buona, l'ho misurata, era 0,008 volt. Invece la batteria di quello cannibalizzato era buona, gliel'ho messa lì, adesso funziona, il BIOS funziona tutto. Il problema è che il browser non funziona più, Internet Explorer ormai è obsoleto, non funziona più, l'hanno proprio disabilitato. E l'antivirus lo stesso è rimasto troppo fermo e non può essere aggiornato, quindi devo trovare un nuovo browser. Allora, Firefox non va bene perché, non so, il mio processore non fa la funzione SS2, non so. E vabbè, quindi metterò un browser tipo Midori, perché sai, Google, lo stesso Chrome, tutti disabilitati sono su XP. Metterò un browser tipo Midori, molto molto leggero, e come antivirus metterò l'unico che funziona, il 360 Total Security. E basta, dai. Quindi io ho finito alle 3 di notte, ho finito col computer. Che si piacerà già? Naturale. Infatti stavamo parlando di quello, che devo trovare il modo di portartelo. Ho in tram scelto col case. Però naturalmente schierata lì, tu devi sapere le dimensioni esatte della scheda video che ordinerai, perché magari ti arriva la scheda e quel case non ci sta. Io non ordino niente finché non vedo il case, anche la scheda madre la prendo in funzione del case. Io non lo so che scheda madre ci sta lì se non lo vedo. Allora, lì c'era una MSI K7, com'era? 7? Vabbè, non me lo ricordo. Poi lo vedrete, dai, lo vedrete. Guarda, io ho tolto da quel computer la scheda video, ho tolto la scheda audio, la RAM, poi ho tolto i lettori GM, io ho tolto i lettori DVD, perché in quell'ufficio, boh, non lo so, stanno andando un po' male. Insomma, da due computer ne faccio uno. E ho tolto il lettore floppy, non sia che si rompa quello che c'ho già. Ho lasciato solo, vabbè, l'hard disk che è rotto, e quindi... Comunque, Natalia, avevi ragione. Il computer da tavolo aveva la lucidità, una sua scheda video, la lucidità video, però lo spinotto che ho io non va bene, è al contrario. Capito? Come dire, io lo spinotto, dovrei fartelo vedere, Natalia, dai, non ti dico. Comunque ce l'ha, c'aveva proprio la lucidità video, hai ragione tu. Ho notato una cosa, che il mio computer da tavolo non ha la scheda audio esterna tipo Creative. Sto usando la scheda integrata, non lo so se è il caso di aggiungergliela. Boh, tu cosa dici? Se si trova la scheda esterna, gliela puoi mettere. Ma alla fine cosa cambia? Cioè, o usare quella interna o mettere quella Creative che ho tolto da quello che hanno invalidato, cosa ne cambia? Ma magari quella Creative è migliore. Più performante? L'ho tolta, già ce l'ho. E poi la RAM, scusate se disturbo un attimino, l'ultimo coso. Allora, il computer da tavolo funzionante usa, monta della RAM DDR333. Invece quella RAM che ho tolto dal cannibalizzato è DDR400. La posso usare su quel computer? Ho sentito che anche se la metti da 400 lavorerà alla frequenza più bassa, cioè a 333. Ti risulta? Sì. Ok, vabbè, continuate, vai Claudio. A Gianni Capidu, aspetta, vai già. No, vabbè, quello glielo chiedere in verticale poi, perché se tu metti una RAM un po' diversa da quella che c'è, anche di marca, potrebbero esserci problemi di instabilità del sistema, ma a rompere non si rompe nulla, vero Natalia? Spero di no. No, e se no cerchi di buscarla uguale, almeno la raddoppi. Perché quelle RAM sono già obsolete. Quindi è una, io avevo già una RAM da 512, no? Se metto quest'altra a 512 e diventa 128 MB di RAM per HP, non è poco, cioè già migliorerebbe. Prova a vedere se funziona, bisogna vedere se te la riconosce. Capitola, tu vai sul sistema quando l'hai piazzata e vedi quanta te ne dà. La velocità di questi 333 MHz li riconosce da soli. Spero che la faccia lavorare alla velocità di quella minore. Io il BIOS non lo so toccare, cioè non saprei cosa impostare. No, BIOS non lo devi toccare, devi andare sul sistema, dove ti fa vedere il sistema, chi è tutto, esiste, che processore, che RAM sta utilizzando, capito tutto, ti dice. Ma poi ho detto 128, cosa sto dicendo? 512x2 fa 1000 danni, il doppio, dai, 1028, quanto è? Boh, devo fare il conto, 1024, vabbè. Un giga di RAM, dai, caspita. è bello per chi è anche troppo. Eia, con un giga già vai. Io ne ho 4 qua, perché c'ho il sistema 64 bit e c'ho 4 giga di RAM. Ok, dai. Vabbè, riprende. Oh Claudio, tu da mangiare al cane devi dare. Mi sa che io ne approfitto e cambio la sabbia ai gatti. Devo cambiare la sabbia ai gatti, dai, ne approfitto adesso. Grazie a me, Daniolo. Capri, sto usando il baracchino, non sto usando il 440, sto usando il 48 con l'MB+5, capito? C'ho circa 6-7 watt, non di più. Quindi che dal baracchino, là, che l'avevo fatto, è tirato un po'. Poi posso aumentare anche la potenza perché è regolabile, però già va bene così. Riprendi i capri. No, ma la 48 va bene così. Io ce l'ho normale questo, c'è solo la potenza regolabile e basta. E voi capito, però è normale, no? Va da un watt e mezzo a 10 watt, basta. Non c'è niente originale, proprio nuovo, nuovo, nuovo. Non ce l'ho sempre attaccato, ogni tanto lo faccio andare, capito? Ogni tanto lo faccio andare con l'MB+5 che funziona bene. E ciccia, tutto qua, va bene, va bene. Ci manteneva volato due io in ferro, col cassone in ferro, il Courier e l'altro non mi ricordo qual era, anche quello è messo a posto. Ehi, va bene, metto a posto anche con lui che già funziona bene. Già funziona bene con i baracchini, e ne avevo tanti di quelli, però è... C'è il posto tutti gli altri a te, se non stiamo parlando adesso. La mettere a posto, tutti a controllare, chi accendeva, chi non accendeva, capito? Non curi, era un bel baracchino, meglio del Constat. Mi piace di più, più completo, poi bella modulazione, stai andando benissimo. Avanti Natali. Ehi K, io a Gianni non lo sento assolutamente. Sto uscendo col baracchino, non lo so, non ti sente Natalino già? No, già va bene, lascia stare tutto così, non ti preoccupare, ok, vediamo Marco se ha finito, se ho riprendito Natalino. Sì, stava mettendo la sabbia al gatto, non sarà paravattini. Io già qua, anetta tutto, da parte di tutta la mondessa, poi la nuova. Cos'è un rugami o lo scavatore? E io vuole pulire anche la vaschetta, tutto. Anda bene Meda. Ui ui. C'era un amico mio crepato stamattina che mi è tornato a lavorare, stava a telefoneggio a Cagliari e anda a cucarmi, crepato. C'aveva questo dolore, ha fatto uno strappo. Uiaia. Ma no, vedi dove eri tu? No, vicino a casa sta. E quindi la giù da due ora mi dice a te, piglia che giù che era manco di dare le larghezze, se non ti rubassa due alle larghezze, giù che è un antidolorifico. E gli ho dato quello che mi ha dato il dottore a me. Capito? Con lui. Chissà vanno a varare, fa una ghita, fanno i lioni. Mal di schiena è brutto, io già lo soffro spesso, adesso un po' meno perché non sto guidando, ma quando stavo guidando nella micidiale, ogni mattina mi alzavo con mal di schiena, proprio causato dal sedile, dai movimenti, capito? Che strappi non li ho mai fatti, però la guida è una rottura di scatto, vabbè. Datemi 5 minuti Capri che devo mangiare al cane, arrivo subito. Va bene Capri, dai, ci sentiamo dopo. Va bene, vai a fare quello che stai facendo, dai, ci sentiamo dopo. Oh Natali, quanto è il segnale così lì da te? Così con questa potenza minima del 48? È 9.20 qua stai arrivando. 9.20, ma può salire ancora lo Smithers? È certo che può salire ancora. Aspetta che aumento la potenza, che mi devo sollevare perché c'è la manopola dietro. Ecco qua. Guarda se è aumentata la potenza. Al più del 30, sì. Quindi di quanto è aumentata? Di un bel. Beh. No, già sale, dai. No, vabbè. Aspetta che riabbasso. Aumentato lì da te già. E prima quanto era più basso? Allora così è a massima potenza. guarda, così a minima potenza già, quant'è? Già va bene, dai, già aumenta. Va bene, sono rimesso una, due, tre, quattro volte, va bene. E già va un modifica dietro, c'è un pulsantino, un potenziometro piccolino, ma sai, ce l'ho fatta fare, c'è una potenza da 5 a 20 watt. Eia, vabbè là, un attimo di cui Rick che devo fare una telefonata. Eia, Natali, va bene, così io devo mangiare il cane. Il tuo con questo baracchino è 9,5. D'accordo, dai, ci sentiamo, a dopo, devo mangiare il cane io. Marco, un attimino, arrivo subito. E beh, tutti morti. Tira e molla, non è che è con piede boaccio. Sì, ma ci sia solo lui con la casa, cazzo, spaccare i dati. Le prendi, Marco? Eia, eia, adesso è i ferri corti con la sorella. Antonè, purtroppo, vabbè, adesso sto per mangiare, ce lo sarei anche venuto. Già ci vediamo più presto. Guarda, domani è festa, anche domani, se sei disponibile, quando sei libero. Ok, domani l'Immacolata credo che sia tutto chiuso anche. Va bene, adesso mi scaldo da mangiare, dai. Ciao Gianni, ben entrato. Ciao Marco. No, non è tutto chiuso Marco, noi siamo aperti. Oh, ma forse allora è una festa solo sulla carta. Perché sai, di solito è in rosso sul calendario, di solito chiudono i pubblici uffici, quelli sì, a chi ci non li pare vero. In Italia ci sono i turni, capito? Ci sono quelli che fanno il turno e quelli che non lavorano, però il negozio rimane aperto. Sì, allora Ocean più che mai aperto, dai, se vogliamo fare un giro con mamma. Ok, dai, riprendete che mi scaldo il raggio. Perché te dico che sarà salito con Concetta per lo spinto. Però originalmente sono tutti girati, tranne che lui non si girava. Vabbè, così è, così è. Cappa cappa, non sei uscito Antonio? Vabbè, sono così qui, guarda. A questo punto, non lo so. Sono quasi demoralizzato, la verità. Non so che cosa andiamo a fare, la verità. Cosa devi fare? Evitate, tranquillo e sereno. Andare avanti, normale, come stavi sempre facendo, la grande. Sorridente e spensierato, tanto si t'abbatti la matessi cosa. Che non aggrappa niente, o altro me, non la vuoi fare vita bianca e a metà dito. Se è da così, la verità, se è da così, ma non è così. Quindi, non lo so, adesso vediamo. Io sono qua da... non ho una rossa, quindi figurati tu. A un certo punto, guarda, avrei preferito, guarda, a fare altre cose, ma non lo faccio, la verità, non lo faccio. No, devi fare, finita. Stai sereno, tranquillo. Oh, yeah. Gianni, ti piace sta modulazione? Sì, a grave. Sì, a 48 con la MB più 5, eh. Comunque Claudio, è vera sta cosa, perché la cara Giovanna se ne sta sbattendo le palle del fratello, no? Sia dal punto fisico sia dal punto economico, non mette un soldo e non aiuta, capito? Perciò sta scoppiando Antonello. Non si può andare avanti così, lei deve capire che quello è il fratello, quindi se c'è da mettere i soldi ce li deve mettere, se c'è da aiutare deve aiutare anche lei. Sì, non ti ho capito, però se uno non nasce niente, non vuoi fare vita bianca, hai capito? Il problema deve risolvere l'automezzo. Noi possiamo solo dare i consigli e basta, io ho già dati. Ogni volta vedo Giuseppe le mando i saluti. Infatti non siamo più viti, io sono sceso anche avanti ieri, da Ricco, prendo il caffè, sono sceso stamattina, però c'è sempre Giuseppe, ma è sempre solo, infatti ho chiesto, ma tu non sta bene Antonetto. È un po' così, un po' giù, ma tu vabbè saluta, vuol dire di stare tranquillo e sereno. Poi Antonio, siamo vicini, te l'ho detto, se hai bisogno, io ci sono sempre. Non so Claudio, ti preoccupa per quella. Sono sempre qua, lo sai. Quindi, sono sempre una persona idonea e basta, quindi. Appunto, se sei una persona idonea, tranquilla, serena, continua a farlo. Ma lei lascia perdere, intanto ti ammali e basta. Avanti Gianni. Io prima io ho visto anch'io, dai, non ti preoccupare Antonio. Quando c'era mio padre vivo, morta mamma, con quattro sorelle me lo sono dovuto prendere io perché una ci aveva un problema, l'altra ci aveva l'altro. E io mio padre per metterlo in qualche spizio non mi piaceva. Per tutto quello che ha fatto per noi non si meritava certo quello. Allora me l'ho portato a casa io, l'ho tenuto 14 anni. E lo cercavano solo alle feste. A era il compleanno per fargli gli auguri, poi non ci siamo arrivati. Ehi, vabbè, comunque il discorso è diverso, quello che stai facendo tu, in realtà. Io voglio solo mettere i soldi e basta, il discorso è quello. Hai capito? Solo quello vuole, il discorso è... Vuole i soldi e basta, vuole altro. A me questa cosa non mi sta bene. Cioè, perché altro... A un certo punto... Mi dispiace, ma... Non ce la faccio più. A un certo punto mollo, ma fa un culo. Cosa che devo fare, secondo te? Continua? No. Io ti capisco, no, io per quello lì quel problema di soldi no, perché i soldi, grazie a Dio mio padre ne aveva e anche da dare agli altri i soldi a per lui. Ma il fatto di cosa, capito? Appunto per quello, se guardi su Facebook, guarda, si fanno a pezzi, lei è marito, quindi a un certo punto, secondo te, cosa devo fare io? Sì. Non devo fare niente, perché è per Dio, è così. Quindi è questa di malattia, perché altro, e lei purtroppo è quello. Soldi e basta, guarda. Veramente soldi. Tutto lì. Non vuole altro. Soldi. È vera, ho capito. E dove fatto? Ognuno ha fatto come Dio l'ha fatto, c'è poco da fare. Tutti sono sensibili e bravi. Ci sono quelli che vivono solo per la moneta e basta. La fortuna che è inventata la moneta. Era meglio il periodo dei felici, cazzo, che c'erano gli scambi di merce. E basta, tutto lì. E i soldi non c'erano in giro. Adesso per i soldi la gente si è ammata e fa casini, bisticcia con le famiglie, insomma. E tutto di più. Appunto, mi sono ammalato io per quello lì. Forse non ho capito. Mi sono ammalato, ma forte però mi. Quindi, a un certo punto... Quello che ci va a culo, che si intenda? Cosa vuoi fare? Ammazzami io, non esiste, guarda. Non ce la faccio più con la verità, guarda. Non ce la faccio veramente più. Ma non ti abbattere, Antonio, non ti abbattere. Cerca di lottare, nel senso che di andare avanti. Poi su di Massi Verno. Tanto i soldi come entrano finiscono qui, ma le persone rimangono e chi ha un punto carattere rimane sempre quello. Secondo te 254 euro sono in pratica ogni mese meno 50, secondo te quanto guadagna mio fratello? Mi scusa, è quello. Cosa faccio io? Mi metto debiti per lui, non esiste, guarda. Il discorso è quello. A un certo punto, guarda, io ne ho veramente la balle piede. Non ce la faccio più, guarda. Veramente non ce la faccio più. Ma è rimasto e mudo tutto, va a culo. Davvero, sì, prendi i soldi, però devi pensare anche a lui. Se tu prendi i soldi, devi pensare a assisterlo come faccio io e tutto quanto, va bene. Io no. Il discorso è quello. La voce non ritirare, basta, no? Però piegarci le mani che no. Vabbè, troppo. Se la vi... Claudio, riprendi, dai. Ascolta, segnale lì com'è da te? Lo stai usando il Galaxy, guarda a vedere quanto è il segnale così, con la potenza minima del baracchino. Ecco, ma è colto il fallo, adesso c'è gli occhiali, vai. Guarda così quanto è il segnale, con la potenza solo del baracchino. 9,25. E così invece quanto è con aumentato la Eccoci, quant'è? Cos'è 9.30 a pieno? Di 5 in città va. Cos'è 9.30 sempre su più? Gappa. Va bene, adesso riabbasso l'ora. E quanto gli è dato di potenza? C'ha 5 watt, 80. Ah, e vabbè, magari siamo anche noi che siamo vicini, ma in lontananza rende di più. Claudio, non credo che siano 80 però. Aumenta di un Santiago, anche da Gianni. Secondo me non li dà 80, magari di picco, ma non continui. No, Santiago, da 25 a 30 non è uno. Cioè 9.20, 9.25, 9.30, è un Santiago. Se non agivo un prezzo. Ah, Santiago, sì, Santiago. Sto pensando adesso di B. No, di portante bianca sono 50, proprio sul coso, sulla T230 sono 50, modulati sono intorno ai 70. Sì, ma poi davvero, se ci fosse qualcuno lontano, tipo che oggi non c'è, coso, li potevi chiedere un controllo, a, come si chiama? Eugenio, però siamo tutti vicini, anche Capri vicino, troppo vicino, dai. Vabbè, ho ricevuto una notizia un po' brutta, speriamo che ce la faccia, poverino. Giuseppe ha avuto un'ischemia cerebrale ieri. Ma filo. Giuseppe di Alghero. Ah, ma poveretto, ci mancava anche quella. C'era pure rotto una costa, come pare. Non so, ma non parla più. Non parla. Ho dato un messaggio a Valerio, ho fatto tutti i informati, nel caso salgo l'Alghero. Mi dispiace anche a me, da poveraccio. E speriamo bene, dai. È che c'è una certa età e diciamo che è più difficile che si riprenda, ma speriamo ce la fai. No, ho preso già male, tanto non parla più. Non parla. Così mi ha detto Valerio. Capito. Tanto da tutti i informati, nel caso salgo l'Alghero, perché io lo conosco e quindi mi dispiace, non è tutta quella roba che c'è lì, adesso vediamo cosa decideranno i pochi. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Massimiliano, ci sei all'ascolto? Io ho la voce ancora rauca, cazzo, mamma mia, mi basta più. Massimiliano, non c'è. Ascolta, quando ho attaccato la modulazione è rimasta variata già. Sì. È buona la modulazione. Oh, qua ho notato che quando attacchi è appena più bassa. Sì, ma non va in saturazione, è sempre bella chiara. No, saturazione no. L'importante è quello, Vabbè, no, ma intanto non lo attaccherò, ma è un piccolo amplificatore piccolino, nel caso, quando uso questo baracchino, nel caso c'è gente fuori che non mi sente, ma sarà molto difficile, allora vediamo qualche watt in più, dai, non c'è problema. Antonio, vuoi riprendere o rimani in stand-by? Dimmi tutto. Ho detto se vuoi riprendere o rimani in stand-by. No, ascoltala poi. Va bene, stai sereno, vai. Cosa stai facendo, Marco? Mangiando? Sì, io. C'ho fame. Ehi, ha mangiato? Magna, Antone. Natalino, stava telefonando, poi sparito. Natalino, ci sei? Sarà il telefono erotico. Lui è cuocomone, quindi deve fare queste cose, capito? Vai, già, riprendi, dai. Ehi, Antone, l'ho visto concetta stasera. Nello spirito. Solo che ero già entrato nella girata, non lo potevo tenere dentro, ho chiamato Natalino, tutti girati, incazzato in lui. Ma dove? Lo spindi vicino a casa sua? Perché mi ha rapporto dottore. Ah, io ho capito. Va bene. Vediamo se c'è qualcuno all'Alghero. Valerio, ci sei? Attenzione all'Alghero da Sassari. No, non c'è. Oggi zuppa di ceci. Zuppa di ceci? Ma lì sei in buccia, ma... Fatto mia moglie una cecciata ieri, ma... Fatta, ma no, comparata all'Eurospino. Ceci freschi. sono ceci in barattolo, no, non quelli secchi, non li prendiamo quelli secchi, ceci in barattolo e poi ci ha aggiunto tutti gli ingredienti. No, già c'è anche pronta la zuppa di ceci, ma ha un sapore diverso, diverso, proprio diverso, non sembra nemmeno ceci. Zuppa di ceci in barattolo, ma non compri i ceci freschi, li metti a bagno. Qual è il problema? Perché comprare questi ceci in barattolo? Ma fa prima. Certo. Già non le prende, non ho parole. Ma adesso tutta la notte a scorreggi sta. Eia, a parte io sto sempre tutto il giorno a scorreggi. Che io mangio, non mangi. Tutta la vita. Se io lavorassi in un ufficio, no, dove c'è il pubblico, non potrei stare. Dovrei andare ogni 5 minuti in bagno per darmi delle arie. Ecco. A parte Robè, buonasera. Buonasera, come sto facendo con questo? Bene, Robè. Il microfono parlo, il livello microfono, questo è fermo da un bel di tempo. Sì, anche troppo forte. Il segnale? Aspetta. Forse l'altro ci va un po' più forte di segnale. Grazie, Robè. E questo è il 14 che era fermo da un po' di tempo, dai, ogni tanto è bene farle camminare queste cose. E io sto usando la 48 con il BBC5. Allora, già stai andando bene anche tu. Ciao a tutti, ho sentito Claudio, Gianni e Marco. C'è qualcun altro? Ciao Marco, rilancia a te, così mi dici. Ah, lo stesso segnale di Claudio, dai. Sì, buona la radio, ottima. Nessuna cosa nostra negativa. È buono, scusate dai che sto mangiando. Già riprendolo. Quante volte stai usando Robè? 10. Ma guarda, aspetta un attimino. Neanche 10 watt. Beh, io lo stesso valore, io ne sono 5. 5 volte con la 48, dai. Ma va bene, no, la radio è buona, ti sto ascoltando benissimo qua. No, ero preoccupato, Mario, rimanendo fermo l'Israele, che quel 14 c'ha quell'Israele che sono una cagata del microfono, Mario, si impastano, non lo so. Non mi è mai piaciuto per quel motivo lì, c'ha troppo piccolini e troppo sensibili, sia quello della potenza che quello del microfono. Quelli devi muovere, anche se non lo usi, muovili ogni tanto. Io lo facevo così, no. Basta 140, no. Ma c'è un brutto. 54, 430 mi ho tenuto e basta. Ma ogni tanto vado anche col baracchinetto, con questo 48 l'MB più 4, beh MB più 5, il segnale più basso, no roba? Il tuo? 9,50, sì. Ehi, allora manco aumento, devo fare un passaggio aumentato a vedere, ma non fare, va bene, già l'ho fatto con Gianni, ho visto che già sale, già va bene, riprendi già. Ehi, ogni tanto una spolveratina, roba. Fare il giretto più che apparecchi, perché magari se lo fermi da un po' e fanno più rifiuti a me, per dire un po' era fermo e il microfono non usciva, a volte non usciva, cosa ho dovuto pulire il PTT, ma senza toccarlo, poi mi dicevo che non usciva, alla fine l'ho aperto, pulito il PTT ed era fermo, forse è andato a polvere, roba del genere. Purtroppo quando ci sono parti meccaniche in fregamento o in movimento c'è sempre qualcosa. Però una cosa, non è che ti ritrovi un tappo, c'è presente dove infili il microfono tu negli apparati, dove c'è il connettore a pannello del microfono, uno di quei tappi per chiudere il tappo, per c'è la vitatura. Te lo fai come ho fatto io? No Robè, assolutamente no. Io ne ho uno e l'ho messo nel DAC proprio per non entrare polvere. E me lo sono fatto con la ghiera con quelle ghiere, quelle che si avvitano, quelle piccole però non quelle grosse, quelle piccole, capito? Dalla parte interna le metti un pezzettino di plastica, qualcosa, e poi glielo vernici in nero, così me lo sono fatto io. Sì, no, ho fatto anch'io, nel 44 ce l'ho così, nel 14 c'ho proprio il tappo originale per chiudere, in gomma, una cosa in gomma, però una volta c'erano quelli chiusi e li vendeva la GBC, però non ne ha più, io ho detto devo guardare se ce ne ho a casa buttati, per metterlo in un altro apparato, perché non mi piace tenerlo così. È brutto si vede se qualcosa, sale un cavettino di quelli, un pezzettino di Regi 58, capito? È un attacco di quelli, non so se ce l'hai, e devo fare come ci sia un microfono attaccato, qualcosa attaccato, a volte facevo così anch'io, giusto per non vedere la sede sede scoperta, capito? Sì, sì, ce l'avevo anch'io quei tappi in ferro. Se no ci sono anche quei tappini di plastica che coprono quando compri centrotetto, no, delle antenne. Ci sono quei tappini di plastica o neri che si mettono. Se no glielo fai a misura anche quei gommini che vendono per mettere sotto le sedie, però non quelli feltrini, proprio quei gommini che si entrano nelle sedie, nelle vecchie sedie di ferro. Ci sono anche quelli che lo fai a misura, piccolino, in modo che aderisca bene alla parte del connettore. Ed è bellino anche a vederci. E io. Cosa? Non ho capito bene la roba, cioè una volta che tu chiudi il microfono, affittare quello lì per tappare. Eia, tolgo il microfono, adesso glielo sto utilizzando per non lasciarli in vista, li chiudo il connettore. Ah, te lo fai con un PL, lo puoi fare. Quell'altro l'ho fatto con un coso di un microfono vecchio, basso, tipo basso, dove usciva il filo, gli ho messo un gommino in officina, ho trovato un gommino ed è uscito bello, però lo voglio mettere per un altro apparato, che non mi piace tenerlo così. Sai quanti gommini vai in officina? Guarda, ecco la cassetta, ti ricordo, stavamo guardando noi dove c'hai tutti quegli affari in gomma, quei cosi in plastica lì, chissà quanto mai li si tappi. Ma guarda, ti ricordi, nel 97 me l'aveva messo uno Danilo a me, di quelli va bene. Sì, no, ma se c'erano magari quelli chiusi in metallo, proprio tappo, tipo quelli chiusi nei tappi di coso, negli scaldabagni, nei muri, quando togli flessibile, stavo dicendo se c'erano di quei tappi, ma me l'ho fatto così, dai, non ti preoccupare. No, non è roba sotto, io l'ho fatto con una di quelle ghiere, ed è l'unica radio che c'ha quella fare lì, chiuso, e là, quando mi serve lo tolgo e attacco il microfono, capito? Proprio per non vedersi il connettore, tu lì. Eia, adesso faccio una prova, inverto i due apparati e mi dite che differenza sentite di segnale, no vabbè, segnale non mi interessa, di radio, tra questo e l'altro che ti attacco dopo. Vai! Com'è questo? Questo ha più bassi, sono tutti e due pezzi, d'altro è magari più acuto, questo qui ha più toni bassi. Sono con lo stesso microfono, ho cambiato solo l'apparato, uno è 14 e l'altro è 44. 44 è migliore, quindi come radio. Diciamo, è sempre questione di gusti. Uno c'ha più altezza e questo qui c'ha più bassi. Confermi, Claudio? Sì, va bene. È proprio la tonalità medio-bassa e medio-alta che cambiano, per il resto vanno bene tutte e due. Il segnale è cambiato qualcosa dalle parti tue, già che sei più lontano? No. E infatti questo qualcosina in più, questo ne saranno una ventina adesso più o meno, 15. No, qua è sempre uguale, sei sul più del 30, più di quello non va sto bracchino. Vai, perché stavo mettendo gli occhiali. 1, 2, 3 prova radio. No, ma io li tiro sempre al minimo, non li ho mai tirati, in FM è solo quando commuti in FM che ti spara tutta la potenza, ma qua in AM è sempre pochissimo. No, roba è preciso, segnale uguale di con l'ala. Infatti non cambia quasi niente, io sto guardando il wattmetro qua, siamo più o meno la stessa cosa, appena di più questo, ma è impercettibile. Ma in FM guarda che è regolabile, 140, 50 e 40 è regolabile. Sì, lo so benissimo, ma li tengo al minimo, non me ne frega niente di tirare il collo, classico. No, neanche io 440 mila quando l'avevo riparato lo tengo sempre a 10-15 watt, non di più, già va bene tanto per fare due chiacchiere più che ottimo, capito? E anche qua la stessa cosa, lo baracchino lo stesso, 5 watt, ottimo per la truppa. Tanto per avere una differenza tra 10 e 30, non c'è mai nulla, la differenza c'è tra 10 e 100, la puoi sentire un po' di differenza, ma se ne hai 10 o se ne hai 30 è impercettibile. Io infatti non cambia assolutamente nulla. Cosa cambia? Punta giamba, già va bene. Vai già. Sì, in effetti così. Cominciano da 80 watt, ha dato un po' di differenza. Già va bene così, Rob. Arrivi più che bene. 9.30, sentiamo la radice, cosa vuoi dire? Ma infatti è utile pure arrivare forte e magari non ascolti a nessuno, a quelli che per dire che tu magari riesci a farti sentire e non ascolti gli altri. Cattarino, tu sì. Perché si vede? Ah, meno male qua mi senti, cazzo, dello spinto ore già venditi. Cattarino, tutti girati, sono quello che siete girati. Io non potevo venire perché ero già all'interno della girata. Non ti ho sentito, parola mia, stavo facendo. tengo la spesa. Come a voi. Già l'ho visto che tempo la stupia a mezzo negozio. Vabbè, adesso abbiamo commutato al grande, no? Già si sente la differenza. No, non si sente, ma anche quel baracchinetto funziona bene. No, parlo come non tanto segnale serale, un po' di più, ma siamo talmente vicini, è forte comunque, anche se ci metti mezzo watt arrivi sempre a bomba. No, la radio, la potenza della radio, questo è 44 o è 430? No, questo è 440. Buona, fortissima. Sì, dopo tutto quello che è stato fatto, io vi lascio fortissima. È bello revisionato, ordinato. Va bene, avanti già. E la chiamata, bianco. E allora, all'inizio dell'anno gli avevo mandato, si è tenuto più di un mese, dopo gli avevo mandato a luglio, gli avevo mandato il 4.30, ma l'ha tornato a settembre. Già va bene, ogni tanto ci vuole una revisionata, quella data. Vabbè, un attimo il telefono. Cos'è successo fra? Stavi parlando? No, è una malattia regionale, ha detto, da Bianco. No, ma come ha parlato, c'era un disturbo, forse c'era un'altra radio accesa vicino. Cos'ha detto fra? È andato a telefonare, il telefono, ha detto. Ah, infatti sentivo una cosa tipo suoneria o qualcosa. Ebbene, sta lì. Beh, là, non mi è toccato nulla, sono in faccio tutto, robè. Sani? In faccio tutto, Sani, e non mi è toccato nulla. Così è. Gianni? Come ti vuoi che sia? Gianni? Dimmelo. Ma tu sei per la concorrenza a lavorare? Sì, sempre dici. E andiamo alla concorrenza a fare la spesa. Cosa? Vai a fare la spesa alla concorrenza. Perché io non ho mai tempo, io lavoro fino all'ultimo momento, quindi se finisco alle 3 come faccio? Non ho mai tempo di fare la spesa. Vado alla concorrenza anche perché qualche cosa la risparmio, e vuol dire che non mi posso permettere di spendere di più, allora vado lì. Traditore! È giusto, capo, uno si guarda e contentarsi, cioè in Africa te di far arricchire a quella parte dove lavori tu, quando la roba la trovi al prezzo più basso. No, la compro anche lì, la faccio anche la spesa, ma oggi mi serviva roba che mi pago di meno, che montare già quella roba lì, come quello lì. Ma quello dove sei tu è un gruppo elementare, come si chiama? Simpli. Praticamente il suo gruppo è Città Mercato. Ma praticamente cos'è? È lo stesso gruppo, vede, se si prodotti Città Mercato. Ma prima si chiamava un altro nome? Abbiamo cambiato lui, prima era Sisa, poi Sigma, e poi è diventato Simpli e Crai. Ci abbiamo Simpli e Crai noi adesso. Ma voi siete, diciamo, tipo una succursale, non è il proprietario della struttura? No, vabbè, tutto in giro, un casino. È gestito da Onestà, praticamente, è quello che c'ha le CRAI. La CRAI è un marchio nazionale, così è, no? Sì. Eia, e beh Marco. Eia. E piano sto mangiando, ma mamma mia, sto diventando ruminante, perché io l'insalata di solito non la mangiavo mai a pranzo, no? E invece adesso sto cominciando a apprezzarla, soprattutto se ci metti uova, rapperocce, quella roba lì. Buono. Allora, Natalino, volevo dire, la vecchia scheda, ce l'ho qua, era una Asti Radeon 9002. Conosci? La scheda video, stai dicendo. Eia. Asti Radeon 9002. E la cosa strana, che una volta messa la scheda sul computer, non mi ha richiesto i driver. Non me l'ha chiesti. Sembra quasi che fosse la stessa scheda, anche se di aspetto era diversa la scheda. Quasi che loro abbiano messo tutte e due schede Radeon 9002, magari un po' diverse, perché c'è la prima e poi la seconda edizione. Non me l'ha chiesto, io niente, non ne ho messi di driver diversi. Bisogna vedere che scheda ti riconosce a te. Capito. Secondo che scheda ti riconosci li puoi anche aggiornare i driver, capito là io me Marco. Te l'ho detto dove andare io per vedere cosa ti riconosce. aspetta lì. Ma tanto, vabbè, c'è una scheda obsoleta, ormai i driver più di tanto non li hanno aggiornati, dai. Sì, allora, il sistema mi vede, radio 9200. E allora te l'ha già riconosciuta, vuol dire che i driver ce li aveva già il sistema. Di lusso, dai. Poi stanotte mi devo zuffare a trovargli un browser adatto e un antivirus adatto. Ed è a posto. Break. Ok, c'è stato un break, fatelo venire avanti. Vai Giulio. Ok, ciao Marco. Ciao Natalino, Gianni e Roberto, sono a tutti. Mi prendi di nuovo e fai girare, vai. Mi sembra che la voce è Moggia oggi, Giulio. Sembra un po' giù. Almeno un'impressione, oppure si è raffreddato come siamo un po' tutti mezzi raffreddati. Ehi, allora in compagnia di Roberto, Giarello Pirum, Natalino, Claudio Cattarefene e non mi ricordo altri. Vai Roberto per Giulio. Sì, ciao Giulio, ben sentito, anche se anche io mi sono accorto c'è qualche problemino di voce di Raucedine, spero che non sia niente di grave. Chiedo conferma, avanti Giulio. No, niente Raucedine. No, non sono di umore buono perché stamattina abbiamo tumulato mia madre, per cui si sa, l'umore è quello che comunque ormai adesso è finito e andiamo avanti così, perché sabato scorso è morta mia madre, domenica sera c'era il funerale e oggi c'era la tumulazione. E vabbè, è andata così pazienza. Mi prendi. Oh Giulio, mi dispiace tantissimo, non sapevo niente, se no mi sarei avvicinato al funerale, ci mancherebbe, cavolo, mi dispiace tanto, è una cosa molto triste, dai. Ok, ti rilancio agli altri, avanti Gianni. Ma anche io sapevo nulla, sono gli altri, mi dispiace. Vabbè, non la sua età, quanti anni aveva Tomasi? Ne avrebbe compiuto 95 il 27 gennaio prossimo. Anche se è sempre una madre, diciamo che la sua vita ce l'ha fatta, è anche bene, dai, se vogliamo. Quindi non è come papà che si è 96 anni, è stato bene, tranquillo, usciva, faceva, poi di colpo si è consumato dalla vecchiaia, purtroppo. Una madre è sempre una madre, per quanto grande sia, è sempre così. Beh certo, quello sì. Io lo so. In pratica è morta di vecchiaia perché mia madre non ha mai avuto mai nessunissima malattia, per cui in quest'ultima settimana, non la settimana scorsa, era stata ricoverata, è stata 3 giorni in ospedale, poi l'hanno rimessa e sembrava che si era ripresa bene, infatti era abbastanza vivace, se vogliamo, abbastanza anzilla. Invece poi dopo 2 giorni che era a casa, l'altra notte si è sentita male e l'abbiamo portata all'ospedale e poi mattinata è morta. Purtroppo è così, la vecchiaia già, è morta di vecchiaia, tutto lì. Mi prende, fai girare tu. Eh sì, come papà è la stessa cosa. Tu pensa che mio padre aveva i denti, ce l'aveva consumati sin dalla Geneva, ce l'aveva dovuto togliere per quello, perché se no ce l'aveva tutti sa. Immaginati. Purtroppo la vecchiaia ha consumato tutti gli organi, tutto quanto, come le macchine, no? Che si consuma il motore, e noi siamo noi. Purtroppo è così. Avanti, Claudio. Claudio, telefono. Giulio, condoglianze. Purtroppo i genitori dovrebbero essere i tempi, ma non lo so. Magari lo fossero. Ok. Ti devo farlo girare, boh. Perciò scusatemi la nota naturale. Dai. E io verrò al telefono un secondo. Buonasera a tutti di nuovo. No, Claudio, stava dicendo Giulio, infatti l'abbiamo fatto le condoglianze, era la mamma, non sapevo niente, mi dispiace tanto. No, non sapevo niente neanche io, dov'è Giulio? Qui è. Sì. Sì, ci sono qua. Oggi l'abbiamo tumulata, è morta sabato sera. Cioè sabato mattina, verso le 5, una cosa così, 5-6 del mattino. E domenica abbiamo fatto il funerale, domenica sera. E oggi c'è la tumulazione. E vabbè, è andata così. Grazie comunque per le condoglianze, dai. Ma buon riprendere. E via giù. Così è, purtroppo. Già me l'avete goduto almeno voi. babbo, figurati. Lei già me l'avete goduta. Dove va? Scendi in die, come ti girisi. Va bene, va bene. E c'è un'altra notizia di Giuseppe di Alghero. Ieri mattina, mi pare, mattina mattina ha avuto un'ischemia cerebrale. 88 anni già. Però non parla già più, non parla più. Ma Giuseppe è quello che sentivamo noi qua. Sì, io. Una bravissima persona che ho conosciuto e mi dispiace tantissimo. Adesso sto aspettando la notizia da Alghero. Vediamo un po', comunque l'ha preso proprio in pieno e non parla più. È diventato muto. Mi dispiace, l'ho sentito qualche volta qua, ma mi dispiace anche se l'ho conosciuto solo per via radio. Io conosco bene, perché la sua tante volte. Ci ho fatto io mettermi in contatto con la nipote, vediamo un po'. Anche perché dice sta con l'attrezzatura, voglio capire cosa devo fare, capito? Sicuramente mi toccherà portarla qua e venderla. Adesso vediamo, ci metteremo d'accordo con Valerio e sistemare un po' le cose, ma tanto non la può usare più, anche se dovesse, vediamo, se vuole lasciargliela per ascoltare, ma parlare no. Non fa vita più, vai già. Capace che si riprenda, dai. Anche mia sorella da poco ha avuto un ebolo e sembrava in coma. E il giorno dopo non parlava, non apriva gli occhi. Poi il giorno dopo di colpo si è ripresa, cominciava a parlare piano piano, poi si è ripresa bene. E vabbè, la tua sorella è molto più giovane. Quello sembra di dubbio. Ma è anche ciliaca e quindi magari anche quello è dovuto. E stavo andando a fare le analisi in ospedale, l'hanno preso in tempo Claudio perché ha dentro l'ospedale, si sta male dentro l'ospedale. Immagino che siccome non stava bene, stavo andando a fare delle analisi e si sta male di lei. È un casino, vabbè, non c'è 88 anni comunque. Adesso vediamo, se quello è anche caduto. Solo se la costa lascerà un po' rimessa a posto, ma comunque ci fermo un sacco di dolori, quindi dobbiamo vedere. Si legge un lui, non lo so, va bene. Avanti Marco, riprendi. Non c'è Marco, riprendi tu Giulio, dai. Okay, ma mi sembra che c'è anche Natalino. Avanti Natalicio, sì. Sì, che ci sono, ero un ascolto. Ero, è stato togliendo la roba al cane, anche le limousine che mi ha già cavato, se la portate qui, adesso me lo ho tolto tutto, a chi da, se mi rubà chi faccia tutto qui. Beh, che sia bello che il cane vuole qui, non ci mancherebbe. Va bene, no, mia, ho appena detto io, sul televideo che lo mando, vinto il pallone d'oro, un fondo, basta, vabbè, passiamo all'altro, riprendi qua. E non è rigido che invece no, poi decido la ceppia, come c'è Mario Girone appresso. Vabbè, quello sono cose che succedono, purtroppo non è facile, quando si gioca in un campo internazionale non è come giocare in Italia. Il gran gioco vale, ma ti vale sempre la ripresa che non prendevo e quelle che mi insegnano, per cui va bene così. Sbala che vanno tanto osannato, l'abbiamo tutti osannato, quindicesimo, pallone d'oro, e loro lo volevano vincitore, ma dai, siamo un popolo deficiente, gli italiani, gli analizzano naturalmente. Non vale nemmeno le scarpe vecchie, né di Ronaldo né di Messi e di tanti altri giocatori. Sì, è discreto, però una persona che non è continua, un giocatore per essere fuori classe, per essere un campione, deve essere anche continuo. Sì, può avere un calo, ma quello è un calo mentale che non, per lui non è in grado di gestire pazienza. Ma io comunque devo il bene in questo mondo, ci mancherebbe altro. Facciamo girare avanti o Roberto. sì, non so. Una cosa è un giocatore, un'altra cosa è un fuoriclasse. Fuoriclasse, gli unici che ci sono attualmente vivi, nel senso, sono solo Messi e Cristiano Ronaldo. L'ha detto Cassano, ho sentito un'intervista di Cassano, quello non ha piedi sulla linea. Dice una cosa a parlare di un giocatore, un'altra cosa a parlare di un fuoriclasse. Certo, quei due sono di un altro pianeta. E Cassano non era scarso. Ha detto tutti gli altri perché hanno fatto il nome di Dybala, dice il nuovo, detto, ma lascia perdere, un buon giocatore, eccetera, eccetera. Ha vantato tantissimo a Higuain. Higuain ha detto, secondo lui è il più forte centravanti del mondo, ha detto proprio niente da dire, dice il più forte di tutti in assoluto. E gli altri ha detto, hanno fatto un sacco di nomi, di giocatori, lasciamo perdere, solo loro due ci sono. Quelli sono fuori qua, gli altri sono giocatori. Neymar è più forte di Higuain, vai tranquillo. Chi? Dybala? Non è determinante come Higuain. Neymar, non Dybala, Neymar è più forte di Higuain e di Dybala messo insieme. Scusa, non ho capito, scusa, Claudio, cosa hai detto? Ah, mi sente o mi sente? Ti ho detto Neymar è più forte di Higuain. Ma non lo so, se tu mi metti a scegliere una squadra più forte, tecnicamente niente da dire, però a livello di risultato è più determinante Higuain. Higuain infatti dico, Neymar molto tipo Ronaldinho, fortissimo tecnicamente, veloce, però si acciappa il giocatore che non è furbo tipo Chiellini, che lo pestano forte, lui ha finito di giocare perché si nervosisce, mentre Higuain non lo siede in terra, sono tipo Ibrahimovic, quei giocatori forti sono dei torelli, non li va in un... non lo so, comunque vediamo se c'è la... ci sono le altre squadre. Adesso sabato c'è Juventus Inter, si buca pure l'Inter, quanto ha fatto il Napoli, si riprende il primo posto la Juve, e allora sono dolori per tutti perché non molla più, non molla più, anche in Champions l'ho vista molto più determinata, molto molto, l'Atene non era facile con l'Olympiacos. Ha visto un Giulio che ti ha raccontato ora di Bala, ha fatto entrare Bernardeschi, ha visto quel gol che ha fatto Bernardeschi. Sì, ma è così, se lo rende ogni abitudine, è importante lì. Sono già okay. Pagati con un sacco, 8 milioni l'anno briglia, mi sento 8 milioni l'anno, se non rendi è giusto che lo metto in partita. Io ho visto un paio di volte, ho visto quel giocatore nero, come si chiama, quel ragazzino con 18 anni, mi fa fede. E devo dire che con lui a me mi piace più di Dybala. Dybala è forte perché ovviamente è forte anche lui, quando si trova in giornata è straordinario, ma c'è quel ragazzino lì, Mbappé, che adesso è col Paris Saint Germain anche lui, è eccezionale, è più forte di Dybala, ma non è, però non li focolo, perlomeno io lo vedo migliore, è perché è un giocatore che partecipa più al gioco colale della squadra. Dybala sì, ti fa quei giochetti, quel dribbling di 2 metri, però non è un giocatore in profondità, non si affonda mai, non sarà mai un grande soccatore come Higuain, appunto come stava dicendo Roberto. Higuain è per me il numero uno nella Juve, io la penso così, poi vediamo in tinta. Vabbè dai, facciamo girare, che forse a loro, a Gianni e a Natalino non interessa il calcio. Avanti Gianni. No vabbè, io rispetto a tutti tutti e ascolto, non c'è problema. Diciamo che non mi interessa più tanto, però ascolto, mi piace sempre ascoltare. A parte che uno quando ascolta impara sempre. Io sono, ho un carattere che non parlo molto, ma ascolto tanto gli altri. E questo mi serve ascoltare e fare un'opinione mia, capito? Ok, vabbè, quello sì. Ma non vogliamo annoiare nessuno. Va bene, dai, riprendi, vai a casa. Sì, dai, sto facendo cosa qua, mi sto ascoltando, dai, rimango qui. Oh, è coso, Capri, più sentito? Se... Sì, c'era stasera, andato a fare la spesa, c'è stato una volta. No, c'era ancora l'attrezzatura. Sì, ne ho dato anche una io di 44, ma non l'ho dato a vendere, l'ho dato a lui, ne ha due. Non c'ha altre radio, no, non ce ne ha, rimesso antenna nuova, otto nuovo. No, perché ogni tanto c'ha tanto entusiasmo, infatti mi dispiace quello, si mette tanto entusiasmo, si prende le radio, poi e ne smonta tutto. Sì, vabbè, quello capita a tutti. Lui c'ha il garage, mette tutto in garage, io invece qua il garage non ho, quindi è sempre... c'ho sempre tutto a vista, perciò anche se a volte magari non entro così, però già ci sono, vai. abitato sia nel riscaldamento sia in campo, come toccava a palla, già l'hai visto, fischiava e brucia brucia tutto. E te lo dico ragazzi, ho fatto un bellissimo, molto molto bello. L'ho visto anche bello attivo contro l'Olympiakos. Quindi la squadra sta prendendo nuovamente quota. Adesso tocca all'Inter affrontare la Juve sabato, vediamo. Se passa con l'Inter, tutto il resto è noia. Arrivederci, buon viaggio anche quest'anno. Infatti adesso vediamo di che passa è fatta l'Inter. C'è da dire che l'Inter ancora io non l'ho vista ad alti livelli, cioè sta giocando così con sufficienza e sta facendo dei risultati. Io non so se si sta conservando, adesso vediamo un po', quando incontro la Juve vediamo di che passa è fatto e vediamo se il campionato, come hai detto tu, è noioso come l'anno scorso, che la Juventus batte anche l'Inter e se ne va di nuovo avanti, oppure si riaprono i giochi con l'Inter che batte la Juve oppure pareggia con la Juve. A Torino no, non gioca per pareggiare la Juve a Torino contro l'Inter, che sa che è una delle favorite, quindi, ma non ha continuità all'Inter come il Napoli, non c'è una squadra, vabbè, il discorso della Juve che c'ha due squadre, hai capito? Se ci fa male cosa, il bomber dell'Inter, voglio dire chi segna, magari che pone, la Juve c'ha quattro attaccanti in panchina, c'ha tre difensori, tre, quattro centrocampisti, due ale, c'è una squadra, no? Non è che sono competitivi, la Juve può sostituire sia la difesa che l'attacco, il centrocampo, l'Inter non ce ne ha, non c'hanno sostituti, l'ha detto anche Sarri l'altra volta, c'è differenza tra noi e la Juve che noi abbiamo una squadra, la Juve ne ha due, quindi con le squadrette piccole può fare un turnover e far riposare quelli di prima squadra, e così ha fatto. Capito? L'errore che ha fatto è fare il turnover con la Sampdoria, che non se l'aspettava. Perché? Perché c'era la Champions, capito? Quindi lì abbiamo preso tre perette. Però, come subito ha messo in campo, ma se ne è accorto troppo tardi, il giocatore a prima squadra ha rimontato due gol in 5 minuti. Purtroppo è così. Cioè noi stiamo giocando, la Juve sta giocando tantissimo rispetto agli altri, rispetto all'Inter, l'Inter non fende nulla, fende solo il campionato, quindi è chiaro che è anche più riposata rispetto alla Juve, rispetto al Napoli, rispetto alla Roma. Però se dovesse qualcuno mancare sono dolori per l'allenatore, capito? Se guardi Marica Andreva, voglio vedere dalla fascia la gara che fa di chi si lanci per cosa. Poi su Marco di Gardena, noi non lo posso vedere molto, però un giocatore che non si esalta, sta segnando, va bene così. Lo vediamo. Cosa succede sabato? Dopodiché se ne parte nuovamente. Vediamo, Marco ha detto che Gorrezzi da Torino non so, sta facendo, riprende Giulio che poi passerà a Gianni. Sì, la prossima partita è giustamente, se la giocano tutti e due, sia l'Inter che la Juve. L'Inter è una squadra sul piano tecnico non c'è niente da fare, sicuramente la Juve è la più tecnica eccetera, però l'Inter è una squadra fisica come la Juve lo stesso, e lì sarà una guerra fisica più che altro, più che agonistica, io penso, o meglio agonisticamente visto, è combattutissima, non ci sono dubbi, perché l'Inter non vuole perdere, la Juve telefono per me un attimo. Cosa ti posso dire? Ti posso dire che in effetti tu hai ragione qua, c'è Riccardi che segna sempre nell'Inter, quello sicuramente sarà marcato a vista, lì con i difensori della Juventus non credo che abbia tutto questo spazio che ha avuto sia lui Riccardi, che ha fatto tutti quei gol che ne sta facendo, bisogna riconoscere, è in grande forma, ma se la Juve riesce a recuperare la stanchezza fisica della partita di Coppa, io penso che è una gatta brutta da pelare, guarda, per l'Inter, non ci sono dubbi, solo c'è qualcosa che non mi convince, non capisco per quale motivo, ad esempio non la fanno giocare domenica anziché sabato, avrebbe avuto una giornata in più di riposo. Io questo non riesco a capire, stanno facendo di tutto per danneggiare la Juve in tutte le maniere. Io la penso, tu mi dirai, ma non è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, no, perché una giornata in più di riposo, intanto ci sono i colpi che i giocatori prendono e vengono riassorbiti quando c'è un giorno in più. E il discorso cambia moltissimo. La federazione evidentemente ce l'aveva contro la Juve, quei bastardi che l'hanno sempre danneggiata, nonostante che la Juve ha fatto grande sempre la nazionale italiana, perché se la nazionale italiana ha vinto 4 volte la Coppa del Mondo l'avrebbe soprattutto la Juve, l'avrebbe, ma comunque lasciamo perdere la polemica. Avanti Gianni. E Gianni mi sembra che sia lontano. Sì, ma è così. E così, infatti ho detto anch'io di sabato, pensavo giocasse domenica addirittura alle 20.45, invece sabato. E vabbè. No, Carli Bosignà contro Verona, contro Ughievo, contro. No? Non penso che segna contro la Juventus. È più temibile Perisic, capito? È più temibile lui che Carli contro la Juve, perché c'è un altro tipo di gioco, è abituato anche a tirare da lontano. Mentre lui gioca in aria come Dybala, come Higuain, come Mankovic. E vabbè, però vedi, abbiamo ritrovato a Douglas Costa, un marzianetto che ci ha vestito. Un marzianetto, guarda, il recupero che ha fatto la Juve grazie a quel ragazzo, grazie a Douglas Costa, perché Allegri continuava a tenersi in panchina a pulire Alex Steiner. E invece, hai visto quella glascosta del quadrato, cosa succede? Quella è la squadra, oramai sta giocando bene anche Matuidi, sta giocando bene Benatia, è una bella squadretta sta uscendo, dai, di quelli nuovi che sono entrati. Sì, ma se al centro del campo giocano almeno a 3, non a 2 come sempre faccio, come sempre faceva prima, se giocano a 3 o addirittura a 4 in mediana, è dura per tutti, perché il problema della Juve era proprio il centrocampo. Però adesso in questa partita, quanto sembra, il candidato numero 1 è di nuovo Mandzukic al posto di Douglas, per cui non lo so, per me Douglas è più in forma al momento di Mandzukic. Io l'avrei continuato a farlo giocare e avrei proprio fatto quella cosa lì, quell'attacco, avrei messo Bernardeschi al posto di Dybala, perché Dybala è proprio è fuori forma, non c'è niente da fare, tutto da farlo giocare, perché si demoralizza sempre di più. E invece lo fai riposare un paio di partite e magari si riprende. E avrei messo Bernardeschi, Higuaín e Douglas Costa, avrei messo in attacco. Io la penso in questo modo, poi naturalmente a dirlo non sono io, è lui che comanda e vedremo un po' che cosa fa. Avanti, Robert. Sì, sono rientrato adesso, ero a telefono. No, vai, dipende. Non ho sentito il discorso di cosa state parlando. Se parlava di calcio prima, poi non ho proseguito. E vabbè, il discorso sai cos'è? Che ti esaltano in Italia, vabbè, anche nelle altre parti del mondo, ma soprattutto in Italia, un giocatore te lo esaltano se fa una partita e te lo demoliscono la partita dopo, se per dire gioca male. E quello, i giornalisti sono una pubblicità buona se sta giocando bene, è cattiva se per dire sbaglio una partita. Adesso a Napoli prima l'hanno esaltata, ma lo soffre da pizzi. Sì, Napoli gioca, fa un volume di gioco al di fuori della norma, perché una squadra di calcio sì, deve fare il bel gioco, è piacevole per chi guarda le partite ovviamente, però deve considerare che deve fare anche dei cambi, e se fa dei cambi non lo so se la manovra del Napoli è la stessa, e il discorso è questo, perché come vedi adesso il Napoli, perché è calato, sì, ha sempre quel vigore, quella voglia di fare, però non c'è più quella prestanza tecnica e fisica di prima, perché ci sono le ultime 2-3 partite, forse anche 4, insomma l'ultimo mese il Napoli è calato, per cui è ancora il campionato lungo. Deve pensare che Napoli è partito prima, è partito e dunque era più allenato sicuramente, e adesso lo staremo a vedere, perché se il Napoli cade, le altre crescono, le altre squadre crescono, sarà dura per il Napoli anche per il secondo posto, e staremo a vedere cosa succede. Bisogna essere diesel, ci vogliono le squadre diesel, le squadre che funzionano subito al primo momento non hanno mai avuto un campionato così brillantissimo, invece quelli che vanno così alla lunga e guadagnano punti in strada facendo, quelli sono quelli che vincono sempre. Adesso la Juve si ha sistemato la difesa, speriamo che continui a tenere come sta facendo sino a questo momento, vero un po', perché se riesce a tenere allora è nulla per tutti, allora si possono fare il segno della croce e giocare per il secondo posto. Avanti qua. E quello sto dicendo, infatti, se fanno la partita contro l'Inter, che secondo me non è una partita da soffrire niente, perché è a Torino la Juve ha sempre dimostrato di essere molto più forte che in trasferta, anche in trasferta sta dimostrando queste ultime due partite di esserci e di essersi ripresa soprattutto. Vabbè, vediamo, vinca il migliore sempre, per carità, io sono anti-interista, però se dovesse andare avanti la Juve, come ha detto Giulio, pensi non solo al secondo posto, perché la Juve non molla più, ha perso quei punti maledetti, ma vabbè, sarebbe stata molto più avanti. Va bene signori, io però vi lascio perché vado a portare il cane, sono già alle 8:20, non me ne ero neanche accorto. Se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Riprendi tu Robe. Bianco per me un attimo. Sì. Roberto, fatto bianco, io d'accordo qua, buona passeggiata con cane, dai, ci sentiamo allora. Se per caso non riesco subito, perché non lo so, sono alle 8:20. Non lo so se mi trattengo, boh, adesso vediamo, chiamo intanto a Natalino. Natalino, sì, sei rientrato? E c'era anche Gianni, mi pare, forse si è allontanato anche lui, e io vado giù, se no poi sfattate che ho i tempi con questo cane, dai, se ci sei a dopo, altrimenti fate la buona, ok? Ok, qua, sì, d'accordo, se non ci sentiamo a domani allora. Buona passeggiata col cane, alle prossime. Sì, Gianni è lo stesso, anche lui è in stand-by, si è allontanato. Ma voi dai, adesso aspetto un attimino che rientra Roberto e poi ci salutiamo, magari chiudo anch'io. Ok, ciao qua, alle prossime. Ciao, ciao Giù. Roberto, ci sei ancora? Roberto, ci sei ancora? C'è rimasto qualcuno? C'è nessuno su 10? Oh Claudio, credo che siamo andati via tutti. Io avevo detto a Roberto che mi assentavo, no? Sai, sto facendo roba. E poi mi sto dedicando al computer. Io ho messo un browser non convenzionale. Midori si chiama, Midori. È l'unico che funziona, perché quello di internet di Microsoft l'hanno disattivato, guarda che passato. Firefox non funziona più lo stesso per XP, da poco l'hanno disattivato. Google Chrome lo stesso non darà più aggiornamenti. L'unico era mettere questi browser alternativi gratuiti di a codice aperto, non a codice chiuso. Quell'antivirus lo stesso, non si può più aggiornare, mettere un antivirus degli sì, gratuiti e funzionanti. E così ho recuperato il computer. E hai fatto bene. No, beh, però te lo malintendo, però se riesci a metterlo a posto tu è meglio, dai. Almeno è più tranquillo. Va bene, continua, dai. Che sono qua io, ancora una decina di minuti e poi ci andiamo a pappare. Adesso cazzo sono uscito, sta rottendo, tutto sta rottire, anche la freddore mi è tornato, cazzo, allucinante. Ehi, guarda che anch'io sto starnutendo, solo che a me non mi prende la gola, mi prende il naso. Infatti ho sempre la voce nasale, mezzo chiuso, non è mai libero, perfio. E c'è un bel freddo a casa, pensa che mi hanno messo anche la giacca, perché ho un bel freddo. Per non stare a accendere il tufo, perché tanto sto andando là, in una camera, nell'altra, in bagno, in cucina, in camera mia, in camera del computer, e quindi è inutile mettere una stufa in una camera quando stai girando anche per le altre camere. Ho qui. Poi quando la temperatura scenderà ancora di più, metteremo lo zibro di fronte alle camere da letto prima. Poi se necessario anche le stufe individuali nelle camere. Bene, insomma tutte povere brutte notizie, mi dispiace per Giulio anche, poi Giuseppe, ma poi un pugno e funereo per questa storia della sorella che è una merita stronza, si sta rivelando. E non ti chiedo così così, dai. E poveretto, Pomponio si sente che sta scoppiando. Questa sorella non capisce che se c'è da spendere ci deve spendere anche lì, ci deve contribuire a soldi e anche a fatica. Capito? Deve fisicamente dare il cambio a Pomponio, non è che deve crepare lui. No? Oh, quindi la cara Giovanna si sta rivelando un po', un po' così. Sono qua, dimmi. E appunto che non devi schiattare tu, no. Il cambio te lo deve dare la tua cara sorella. E se c'è da mettere i soldi, deve mettere anche lì. Non gli entra in testa. Un po' si sta rivelando un po' ropiglioni, Giovanna. Infatti già ti hai visto, già lo sai. Io ero, sì, al computer appunto, sto mettendo a posto. Non mi sembra vero, vabbè, non farò più acquisizione video perché non ne sto usando più telecamere. No. Più di tanto non me ne frega, al limite. No, non faccio più copie di DVD, non ne faccio più gana nemmeno io di stare già presso. Però navigare può navigare, la posta funziona, se si vede anche YouTube è tanto di guadagnato. Dai. E di comportabile alla fine non. C'è anche il fisso, il portatile non lo userò più. Non so che fine fa quel portatile, boh. Io meglio sia anche quello. Gappa gappa, io non so, neanche a me non mi dispiace davvero. Mamma di Giulio, grazie a Dio già. Mi spiace sempre perché è così, ma si perdono tutti i figli, quindi purtroppo dipende così. Giuseppe c'ha l'età che ha, c'ha 88 anni, 89 l'avrebbe compiuto, adesso l'abbia già compiuti forse, non so se era novembre o dicembre, non mi ricordo. Adesso è venuta questa cosa, poverino, lo vediamo. Adesso aspetto che mi dia notizia Valerio, dovrei che fare un salto al Ghero una settimana, vediamo un po' se riusciamo a vederlo, che non è perché è un messo male. Va bene, dai, io vi saluto e spengo tutto, me ne vado a vedere un TG. Ci aggiorniamo domani, Marco. Ciao Antonio, stai tranquillo, sereno e cerca di rilassarti un pochino, se no così non puoi sicuramente andare avanti, capito? Ho capito, quindi e poi faccio una cosa, posso dire a un certo punto, guarda, lo so, questo processo. Vabbè, ma non è nemmeno riconoscente, faccio quello che vuoi tu, non c'è problema, con voi, perché vuol dire bene, a un certo punto guarda, meglio uno morto che uno vivo, a un certo punto, e anche fisicamente deve scordare. Sì, Marco, hai parlato sotto Antonello, ti ha coperto, se lo sai qua arrivo a fondo scala. Cosa hai detto, Marco? E ho detto che purtroppo la situazione non cambia, Giovanna continuerà a fregarsene e Pomponio a fare i turni e a ammalarsi lui, capito? Poi questo fratello, forse riconoscente, non vuole mangiare, ti tira la roba addosso, te risci di tutti i colori, vuole la birra, vuole le sigarette. Oh, deve capire che lui, la sua vita deve cambiare, niente più bere e nemmeno sigarette. Capito? Ma la vita è cambiata, grazie a Dio, aveva quello, quindi a un certo punto fa quello che voglio io. Ormai ho eliminato tutto, quindi a un certo punto faccio quello che voglio io, senza Dio faccio quello che voglio io, meno male, e la ora, guarda, ti giuro, guarda che stavo diventando esaurito la vita, perché non è possibile. Quindi a un certo punto basta così, vado l'acqua. Che c'è il cuscino, ricordatemi, quello non ne puoi più, lo so un pochino, è giorno, e così finalmente ci ti liberi. No, tranquillo, io non c'è il vivo, questo non c'è problema. Comunque sì, adesso guarda, siamo a posto, grazie a Dio. Eia, Claudio, che ore sono? Che non ho l'orologio qua, è tutto al buio qua. Già chiuso, vabbè Claudio, ciao, ci sentiamo. Vediamo un po'. Le 8:11, vabbè, ora è il telegiornale, però ormai mi sono perso, metà. Mi sto dedicando al computer, sto mettendo quello che serve per ripristinarlo. Deo grazie, sono riuscito a metterla a posto. Non mi sembra vero, guarda. Ok Antonio, dai, chiudo anch'io, dovrò fare un po' tardi col computer, io ho finito alle 3, alle 3, e ho dormito malissimo dopo, male, anzi quasi non ho dormito, alle 7 di mattina ero ancora sveglio quasi, o alle 6, sono veramente di brutta nottata. Sì, io penso che la vita, comunque sia, a un certo punto, al computer, mamma mia, niente da fare, ho chiuso tutto e basta. Eia, ho capito, dai, oggi non c'è nessuno nemmeno in PMS, va bene Antonio, chiudo anch'io, dai, e mi metto al computer, poi già ci sentiremo, non so quando. Qualcuno mi ha detto questa storia del campo, che non è obbligatorio farlo a dicembre, anzi certi mi hanno consigliato di farlo a gennaio. Com'è questa storia? Niente ne sai? Assolutamente no, in realtà no. Quindi, sembra stato così. Hai fischiato, ho fatto un... Ho detto, non so cosa stai dicendo, quindi non so di queste cose strane che se ce l'ho. Quindi a un certo punto aspettiamo un pochettino, poi vediamo, basta. Sì, vabbè, io ci penserò. Ciao Antonio, buonanotte, dai, mi attacco al computer, ciao ciao. Io altrettanto, lo sai che tu ti attacca al computer, quindi... E poi vediamo un pochettino. Vediamo chi c'ha ragione.